Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. È stata una settimana importante per la scuola, importante per chi pensa che il decreto Gelmini convertito in legge mercoledì migliorerà il nostro sistema di istruzione, con il maestro unico, il voto anche alle elementari e alle medie, il voto di condotta che fa media come tutte le altre materie e quindi può comportare anche la bocciatura, i libri di testo che non potranno più essere rieditati ogni anno. Difficile riassumere qui i contenuti della legge, vi ricordo però che potete andare sul sito radio24.it per capire meglio di cosa parliamo. Una settimana importante però anche per chi questa legge proprio non la vuole. Sono insegnanti, studenti, precari, genitori che hanno manifestato giovedì e non solo in molte città d'Italia. Questa è la cronaca della settimana a partire da martedì. La protesta in realtà va avanti da giorni, soprattutto nelle università contro i tagli che, ripetiamo per l'ennesima volta, non c'entrano davvero nulla col decreto Gelmini ma con i tagli della finanziaria. Ricercatori, studenti e anche rettori lanciano l'allarme riducendo i fondi alle università, le si condanna a morte sicura. Ma si avvicina la data di conversione in legge del decreto Gelmini, pian piano cresce in settimana la protesta anche nei licei, molti vengono occupati, cortei, sit-in un po' in tutta Italia. Dunque questa la cronaca della settimana, a cominciare da martedì in aula del Senato la discussione sul decreto Gelmini, una discussione molto animata. La seduta è sospesa, convoco immediatamente la conferenza dei capigruppo. Fuori l'assedio e le musiche degli studenti in protesta. Intanto al Teatro Capranica di Roma si riuniscono gli studenti pro Gelmini. Sentiamo Giovanni Basini, responsabile nazionale di Alternativa Studentesca. Siamo perché chi occupa la propria scuola debba essere bocciato con un voto di condotta negativo. Noi siamo quelli a favore del ministro Gelmini. Gli studenti che si dicono di destra, che stanno davanti al Senato, sono gli studenti del blocco studentesco, noti per fatti violenti nelle scuole di Roma, studenti noti per essere di un tipo di destra che non è la destra attuale. E non si possono chiamare di destra, perché quelli non sanno nemmeno perché protestano. Questo invece è mercoledì, è la giornata clou della settimana. Riprende la discussione in Senato con le dichiarazioni di voto, anche divertenti, come quelle del senatore a vita Francesco Cossiga. Avrei capito i bambini gridare merendine, no, assunzione. Cosa sa, qual è il significato, salvo che non sia un genio, di un bambino di 6 anni, assunzione. Merendine sarebbe stato meglio. E poi ancora invece dichiarazioni pesanti, sempre di Cossiga. Lasciamo parlare il presidente Cossiga quando senza interromperlo. Quando ho fatto picchiare a sangue gli universitari che hanno cacciato via Lama, il gruppo del Partito Comunista alla Camera in piedi mi ha tributato un'ovazione. Se lo vado a leggere. Sì, certo, quello che ho fatto io, con l'aiuto e il consenso del Partito Comunista, che in quest'Aula ha votato all'unanimità la mozione dell'ordine del giorno a mio favore. Ma erano tempi di Berlinguer, non di Walter Veltroni. Erano i tempi di Natta, non di Franco Marini. Era il tempo del glorioso Partito Comunista. Alla fine il decreto Gelmini diventa legge. Dichiara aperta la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 1 settembre 2008 numero 137. Votazione aperta. Votazione chiusa. Il Senato approva. Fuori da Palazzo Madama si scatena il putiferio. Fra i manifestanti esce, armata di megafono, Anna Finocchiaro del PD. La parola democrazia è la parola futuro. Parole che non abbiamo ascoltato, diciamo, durante questo dibattito da parte né della maggioranza né del ministro, che ha ostinatamente, opacamente, in maniera determinata, taciuto, come se non fosse la responsabile di questo provvedimento, se non fosse la responsabile della scuola e dell'università italiana. Ma il premier Berlusconi torna a difendere il provvedimento. Spiace soltanto che siano stati presi in giro tutti questi ragazzi che sono in giro per Roma o anche nelle altre città, perché evidentemente è una vera truffa che si è combinata alle loro spalle, perché questo decreto sulla scuola primaria, sulla scuola elementare non c'entrano nulla e sull'università ancora nulla è stato deciso. Quindi spiace davvero che ci sia questa capacità della sinistra di truffare ancora i propri stessi sostenitori e anche coloro che sostenitori non sono. non c'è nulla di ciò che ho letto nei volantini che corrisponde alla realtà, nulla di nulla. Mercoledì è anche il giorno della brutta faccenda di Piazza Navona, ancora tutta da chiarire peraltro. Scontri fra studenti di sinistra e studenti di destra. Spuntano le mazze, volano le sedie e i tavoli di un bar. Risultato: 5 feriti, 2 poliziotti e 3 manifestanti. 2 fermi, uno studente di destra e uno di sinistra. Questa è la ricostruzione di uno studente di sinistra. Secondo te c'era l'intenzione di scontrarsi? Sì, anche sì, da parte c'era di assolutamente l'intenzione di scontrarsi, c'era assolutamente. Ma da parte di entrambi? Da parte di entrambi, da parte di entrambi. Però quello che è importante è che quella gente non ha nulla a che fare con la protesta studentesca di questi giorni, nulla, assolutamente nulla. Sono gruppi esterni organizzati che fanno solo quello sempre, tutti i giorni. Arriviamo a giovedì, è il giorno dello sciopero organizzato dai sindacati, cortei e slogan in varie città d'Italia. A Roma i 3 sindacalisti. Sentiamo Epifani della CGIL. Non dividiamoci, la forza di questa giornata è la nostra unità. Non scambiamo un piatto di lenticchie per la forza di questa unità. Io prego! Ve lo chiedo e dico al governo, non divida il governo quello che le persone vogliono tenere unite. Ad ascoltarlo a Roma tanta gente, inutile perderci dietro i numeri che non si sa mai quali siano quelli giusti, tanta gente anche a Milano e molte altre città. Tutto procede bene, tranne che a Bologna, parapiglia fra le forze dell'ordine e gli studenti di sinistra. 6 i feriti, 5 ragazzi e una giornalista capitata in mezzo. Sono tantissimi ragazzi, poche idee ma chiare. Siamo qua per protestare contro la Gelmini che sta distruggendo la nostra scuola, tagliando milioni di euro che ci distruggeranno completamente. Non avremo più la possibilità di studiare in maniera decente. È una razzista schifosa, sta facendo delle classi ghetto che non sono assolutamente per favorire gli stranieri, ma sono puro razzismo, che è anche contro la Costituzione. È una vergogna, fa schifo! Poi ci sono gli insegnanti. Avanti al popolo, alla riscossa, De Berlusconi voglia la mossa, e la Gelmini che è sua gemella, faremo a meno anche di quella. E ci sono anche i bambini trascinati lì, non sanno neanche tanto bene perché. E tu perché sei qua a ballare? Perché c'è la manifestazione. Maroni a fine giornata farà sapere che chi occupa le scuole sarà denunciato. E arriviamo a venerdì, il governo riferisce in aula sugli scontri di Piazza Navona. Il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma difende le forze dell'ordine. Desidero sottolineare che dalla oggettiva ricostruzione dei fatti emerge come, anche in questa circostanza, l'operato delle forze dell'ordine sia stato ispirato a criteri di equilibrio e di prudenza, cercando di contemperare, da un lato, i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero e, dall'altro, quelli, ugualmente riconosciuti, della tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità. A Piazza Navona sono entrati in azione decine di teppisti di destra, invece per il deputato del PD Walter Verini, che fa una richiesta al governo. L'impegno che noi chiediamo a questo governo è quello di garantire la libertà di manifestare e di non colpire una speranza, quei giovani, quegli insegnanti, quei precari di tutte le scuole, dell'università. Non sono violenti, sono persone che lottano per il futuro, non solo di se stessi ma anche di questo paese. Buona domenica a tutti, da lunedì, dicono gli studenti, la protesta ricomincerà e noi saremo lì a raccontarvela.